poi invece mia madre mi ha comprato la fisarmonica che non mi piaceva, e 120 bassi che pesava da morire. Andai a Teramo, a Piazza Dante, ci stava appunto che aveva gli strumenti musicali, era Della Noce, Della Noce. Gli portai la fisarmonica per comprare una batteria e gli dovetti rifare 90.000 lire in lire. Mi fece firmare, che era illecito, in quanto ero minorenne, 9 cambiare le 10.000 lire. E per 9 mesi ho preso le botte, perché quando arrivava la cambiava, mamma mi venava, poi la cambiava. Dico, questo è l'ultimo, per 9 mesi ho preso le botte. Ma non era un bravo batterista.